passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelle stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, e beh, troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Ti giuro che faccio la trasmissione solo per sentirti cantare Pippo Franco. Posso dirti che è solo un omaggio al grande Barisoni e al grande professor Modini poco fa. Lo so, fatto... lo so, intanto non ti si sente come al solito. Non ti non si sente? Non ti si sente. Sarà lo spread. Ma che spread? Quale spread? È colpa dello spread. Faccio la trasmissione solo per sentirti cantare chi co. Sentiamo Bossi, Bossi. Soddisfazioni, e dopo 10 anni di giornalismo sono soddisfazioni. Il vero Bossi qui, rumori, suoni, vabbè, insomma, il solito cancan, il solito delirio parenzo in collegamento dal Granducato di Siena, ma andiamo subito a sentire Bossi che se la prende con i giornalisti che parlano della sua famiglia. Sentite, è abbastanza chiaro, Questa è una vergogna, questi qui scrivono, per esempio, sulla mia famiglia. Io o mi spacco la faccia, prima o dopo vi spacchiamo la faccia, oppure vi denunciamo, che non è possibile che uno si metta a sputare. Cioè, io qua ci tengo la mia famiglia, mi dà fastidio che voi rompiate i coglioni. Meritate la galera, addirittura, giornalisti, meritate la galera. Quando voi sperate di raccogliere i risultati delle liti che mettete in piedi scrivendo pezzi che meriterebbero di mandarvi in galera, comunque di denunciarvi almeno. Il giaguaro è già pronto a colpire finché ogni gallo. Vabbè, insomma, una sorta di invettiva contro i giornalisti, non è la prima e non sarà l'ultima. Prima o poi vi spacchiamo la faccia, meritate la galera, la gente ne ha piena le scatole di voi. Poi, in Italia ci sono due paesi uniti dai disgraziati savoiardi. Senti. Sentiamo. Io sto sempre in allerta quando sento parlare di Europa. Questi, logicamente, vedono il paese non per quello che è. Non capisco che il paese, in realtà, sono due paesi uniti da quei disgraziati dei savoiardi. Va bene, poi... Va bene, perché dici sempre va bene? Non va bene! Sì, non vabbè, va ma questo bene. Lo lascio al vostro giudizio, eccetera. Non va bene! Scusami, Tremonti e Bossi alla festa della zucca e crolla tutto, poi si lamentano dello spread. Bossi e Tremonti alla festa della zucca, ma amico mio! Qual è il problema? Ma non si può andare alla festa della zucca, il 31 ottobre c'è Halloween, abbi pazienza. Alla festa della zucca e due ministri, ma di che parliamo? Perché dici va bene, ma non va bene, di non va Pannella, bene. La Corte Costituzionale è peggio dei colonnelli greci, senti. Questa è una meraviglia, questa è buona, questa è top, questa è il top. Siamo al top qui, siamo al top. Lui, come ladro di legge e di verità, non assurge ai livelli del regime italiano. Oh, per evitare i referendum radicali, non solo ci verremo, abbiamo avuto una Corte Costituzionale che ha agito come corte di colonnelli greci, se non in modo ancora peggiore. Loro sono bravi, questo qua ha imparato male, fa pasticci, ha capito, non è un genio manco del male. c'è del vero in quello che dice Pannella. Ma con chi ce l'ha? Allora il discorso parte da Berlusconi. Parte da Berlusconi e lui dice: non è il genio del male, è peggio come. No, com'è che dice? Come ladro di verità. Ladro di verità, stupratore della democrazia, della cupola della Corte Costituzionale, partitocratica prima, Giorgiana Masi, liberali. Fermati, no? Fermati. Berlusconi ha smarrito Veronica e ha smarrito anche noi radicali insieme. Questa è buona, è sempre Pannella. Devo dire, contemporaneamente mi pare che ha smarrito Veronica e ha smarrito noi. Lo dico con serietà, perché sicuramente sua moglie meritava, anche da parte sua, soprattutto da parte sua, che l'aveva scelta, molta ammirazione. Va bene. Poi Michele Serra, ieri ospite di Lerner, di Gad Lerner, che dice: il rischio è un Renzi che è una sorta di Berlusconi di sinistra. Si è aperto un po', non parlo di Serra naturalmente, o anzi parlo anche di Serra, si è aperto una sorta di tiro a Matteo Renzi, no? Da parte di una certa sinistra. Una discussione, però devo dire che insomma le persone secondo me sono anche un po' prevenute. Non parlo di Serra, che è una persona molto intelligente, assolutamente, però insomma siccome dice delle cose che non sono nel mainstream della sinistra, certo, allora certo, viene subito attaccato il Berlusconi, saggio, il Berlusconi di sinistra, il populismo, non si capisce in che cosa sarebbe populista Renzi, comunque. Come ipotesi fausta, però, quella del Blair all'italiana, perché c'è anche un'ipotesi infausta, per dirla proprio come al bar, un Berlusconi di centrosinistra, diciamo, comunque una persona che mutua da quel modello populista, come comunicativo, televisivo, un involucro, una forma, e poi i contenuti, insomma, bisognerebbe andare a vederli un po' meno. Ma se... La Bindi è tornata a far parlare di sé, sempre ieri da Lerner. Renzi, tardo blairismo in salsa populista, una cosa incomprensibile alle masse. Non credo che adesso nei camion di tutta Italia, nei taxi, riescano ad interpretare questa cosa. Cara Presidente Bindi, tardo blairismo, mi sono acceso all'improvviso, tardo blairismo in salsa populista, ma che vuol dire? Sei in quelle 100 idee ce ne sono alcune che non sono di centrosinistra, lo dico chiaramente. E guardate, io dico questa cosa perché il mio segretario ieri, qualcuno ha detto, è stato un po' brutale. Forse io lo sarò più di lui. Alcune proposte di Renzi sono tardo blairismo in salsa populista. Lo dico con convinzione. Eccoci qua, io più sento i critici di Renzi e più divento renziano. Cioè più li sento e più divento a favore di Renzi con la spada. Sai quella proprio con la spada? Bello Alberto da Giussano. Sì. E non so se gli fai un favore a Renzi però. No, non so, ma chi se ne frega. Non credo che sono un pericolo, non rappresento un pericolo per la carriera politica di Renzi. Sei un uomo che fa opinione, caro Cruciani. Allora, abbiamo qui Roberto Antonione del PDL. Buonasera, onorevole. Buonasera a voi. Come sta? Meno male che l'ha chiamato lei, Cruciani. Perché? Perché avevamo perso le tracce del signor Antonione. Ma no, non è vero, ha fatto recentemente, è uscito fuori con delle cose interessanti che ha detto. Sì, per ma questo... poco, dovrebbe uscire molto di più Antonione. Più Antonione, meno Cicchitto. Più Antonione, meno Verdini. Ma senti, sei scatenato, stasera sei scatenato. Ho detto più Antonione, meno allora, Verdini. Roberto Antonione è stato due volte sottosegretario, persona molto vicina a Silvio Berlusconi. Grande lottatore. Fa parte del PDL da non so quanti anni, Antonione. Da sempre. Cioè, dal PDL, insomma, dal centrodestra, prima di Forza Italia, da quanto tempo? Dal 94, insomma, berlusconiano della prima ora, eccetera. Esatto. Di fronte a quello che stiamo attraversando, anche alle notizie di queste ore, Berlusconi deve andare via, me lo dica chiaro e tondo, Antonio, qui non è che ma si va certo. Troppo. Come certo? È certo, è semplice, voglio dire, noi abbiamo sostenuto la scorsa legislatura che non si poteva governare il paese in una situazione peraltro molto più semplice dell'attuale, perché al Senato avevamo uno o due parlamentari in più. Sì. Adesso, in questa legislatura, col mondo che sta crollando, la situazione parlamentare ci vede con uno o due parlamentari quando va bene in più, e come possiamo pensare di governare? Ecco. E dunque che bisogna fare? Berlusconi si rimane? Dunque bisogna allargare la maggioranza e trovare una maggioranza che sia in grado di affrontare i problemi veri che questo paese in questo benissimo momento ha. Però lei sa che per allargare la maggioranza, immagino lei intenda il terzo polo, o una parte del terzo polo, il presupposto è che Berlusconi si faccia da parte. Guardi, non ci sono presupposti diversi per governare il paese. Il paese ha bisogno di avere una maggioranza ampia, certamente almeno a quella che è la maggioranza, diciamo, faceva riferimento al cosiddetto polo delle libertà, e quindi l'attuale coalizione più il terzo polo, ma ancora di più in una situazione di emergenza se necessario. Ma certamente quello che non si può fare è pensare di governare questo paese con uno o due parlamentari in più, perché i fatti dimostrano che non è possibile, e quindi non si può prendere in giro il nostro paese, soprattutto in una fase come questa. Scusi, lei voterà ancora per i provvedimenti della maggioranza, e se ci sarà un'altra fiducia voterà ancora per la fiducia, dato quello che sta dicendo? Guardi, non c'è più tempo di fare, come dire, alchimie, uno vota, uno non vota. Ormai insomma, la responsabilità che abbiamo e che dobbiamo avere è una responsabilità che ci porta a dire a tutte le persone che si rendono conto che sta precipitando la situazione: facciamo qualcosa perché questo non accada, perché sennò saremo complici. Dunque, il primo passo qual è? Dunque, lei non voterà più i provvedimenti, esce dalla maggioranza, esce dal PDL, che fa? Io penso di assumere un'iniziativa precisa che ci consenta appunto di favorire questa nuova fase. L'iniziativa qual è, Antonione? Uscire l'iniziativa è quella di togliere la fiducia a un governo che ormai non ce l'ha più. Dunque lei esce dal gruppo parlamentare del PDL? Sì, la mia intenzione è quella di uscire dal gruppo parlamentare. Quando? Non voglio essere complice di Berlusconi. Vedi? Quando? Ma guardi, lo farò nei prossimi giorni, non è una cosa, non è che devo farlo questa sera, ma questa è la mia intenzione. È del tutto evidente che sulla base di questa intenzione i tempi saranno conseguenti, insomma. Mm. D'accordo, c'è il traffico, torniamo subito. Le tappe quali dovrebbero essere secondo lei? Cioè, Berlusconi si deve dimettere, poi un incarico a chi? No, questo dipende dal Presidente. No, d'accordo, ma lei chi immagina? Uno del centrodestra o anche una figura istituzionale per un governo più largo? Guardi, la persona che deve avere l'incarico è quella che dovrebbe essere capace di raccogliere il maggior consenso parlamentare, quindi sulla base di quello che sarà. Anche col Partito Democratico? Questo non sarà certamente possibile, perché le elezioni hanno dato un verdetto preciso, e quindi la maggioranza che ne è uscita è una maggioranza parlamentare di centrodestra, e quindi è chiaro che per avere la fiducia più larga possibile bisogna partire da questo come dire, elemento. Non è che possiamo stravolgere tutto. Che ne so, facciamo qualche nome, Antonione, che ne so, Letta. Gianni Letta, per esempio, è una persona che ha la stima e la considerazione di tutti. Pisano? Una persona capace che potrebbe, secondo me, guidare benissimo il paese. Ma lei ha parlato con Berlusconi di questo? Che vuole uscire dal PDL? Io ho detto al Presidente Berlusconi che la situazione così com'è non è una situazione compatibile. Ma gli ha detto che vuole uscire dal gruppo? Io ho detto che se non ci saranno azioni che ci consentiranno di risolvere questa situazione, è chiaro che io non potrò condividere una scelta che penso sbagliata. Eccoci qui, 800 24 00 24. Questa è La Zanzara, in diretta da Milano, il sottoscritto. Poi c'è Davide Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena. Immagino a Trieste, se non è già a Roma, Roberto Antonione. Bene. PDL, che ci ha appena detto che uscirà a breve dal gruppo del PDL alla Camera, ex coordinatore di Forza Italia, ex sottosegretario, uomo molto vicino a Berlusconi. Ma questo Berlusconi, penso, vogliamo chiedere a Antonioni una cosa. Come lo vede Antonioni? C'è un po', ecco, bollito, magari una parola, come lo si può definire? Stanco, finito? Antonioni, ci dia una definizione Marcato. Così plastica di Berlusconi. Stanco indubbiamente, stanco anche perché ha subito di tutto e di più, insomma, onestamente, il dato è oggettivo, ha dovuto far fronte a una situazione che è straordinaria da ogni punto di vista, anche sul piano personale, e di conseguenza è chiaro che lui oggi sconta anche quella che è stata, come dire, oggettivamente una stagione molto pesante nei suoi confronti. Quanti errori ha commesso? Tanti. Cioè, secondo me è sbagliato fare un ragionamento che veda Berlusconi sì, Berlusconi no. Cioè, noi dovremmo mettere al centro delle nostre riflessioni l'interesse generale del paese, e secondo me l'interesse generale del paese è quello che in un momento di difficoltà grave come quella che abbiamo di fronte, tutte le però. Persone, le forze. Ma lui ce l'ha a cuore, Berlusconi c'è. Farsi carico di cercare di contribuire a governare questo paese. Ma Berlusconi ce l'ha a cuore questo interesse del paese, o in questo momento non è in grado di assumere una decisione del genere, quella che dice lei, cioè lasciare. Io penso che le persone che sono vicine a Berlusconi, che vogliono bene a Berlusconi e che hanno anche, come dire, un sentimento di riconoscenza nei suoi confronti, dovrebbero convincerlo, far di tutto perché anche lui, come dire, aiuti, anzi lui guidi questa transizione. Ma chi sono le persone più vicine a Berlusconi adesso? Per arrivare a questo risultato deve fare un sacrificio personale, io sono, come dire, convinto che questo debba essere fatto. Ma lui non lo farà, però lei lo conosce all'interesse del nostro paese, e penso che anche per il presidente Berlusconi la strada migliore sarebbe proprio quella di essere lui il protagonista di una transizione verso una situazione politica diversa. Senta, ma chi è che lo può convincere? Chi è che gli può dire dai Silvio, su? Esatto, chi lo può convincere? Perché le persone più... tutte le persone che gli sono vicine. Chi si fida, le persone che hanno responsabilità di partito e di governo, a partire dal segretario del nostro partito Alfano. Ma non mi pare che abbia questa intenzione. Alfano però, non vuole dire proprio niente. Alfano non mi sembra che abbia intenzione di dire a Berlusconi mettiti da parte. Cioè, secondo me l'errore è anche questo, è che le persone che lo spingono a chiudersi dentro il bunker non gli danno un consiglio utile, e perché, né a lui, perché, né al partito, né tantomeno al paese. Perché non gli danno perché vogliono rimanere attaccati anche loro? Perché sono... hanno una visione diversa, non lo so adesso perché. Qualcuno lo farà per opportunismo, qualcuno lo farà per convinzione, però è il giudizio che io do, senza entrare in meriti, come dire, senza dare valutazioni di merito, per me sbagliano, perché la situazione richiede, secondo me, una svolta politica radicale. E quelli che pensano che invece bisogna continuare così, asserragliati in una maggioranza che per trovare i numeri deve mettere tutto il governo seduto sui banchi del Parlamento, secondo me sbagliano. Senta Antonione, ma quante persone la pensano come lei e non lo dicono? Guardi, tutte. Come tutte? Tutte le persone con le quali lei parla in Parlamento, a microfoni spenti, salvo rarissime eccezioni, condividono la necessità di una svolta. Anche di conseguenza poi, insomma... Anche ministri? Anche ministri. Anche ministri, certamente, anche ministri. Non tutti, logicamente. No, ma certo. Insomma, la stragrande maggioranza dei miei colleghi parlamentari, parlo di quelli che stanno nel mio partito, per capirci, nei discorsi personali, che poi ovviamente non si possono rendere pubblici e che smentirebbero un secondo dopo, ti dicono queste cose qua. Questo è il sentimento più diffuso, cioè la necessità di dare una svolta, ma d'altra parte è talmente logica la situazione che non è che una persona, come dire, che capisce, perché nessuno... di politica non condivide. No, certo, questo. Antonio, è chiaro, ma perché nessuno, però lei dice tutti quanti lo, perché nessuno si fa avanti allora? Guardi, intanto devo dire che ci sono stati quelli che sono fatti avanti. No, lei adesso, poi l'onorevole Gava, anche più di me ce ne sono stati altri, insomma, è chiaro che poi uno deve maturare il convincimento e soprattutto c'è sempre un po' la speranza che cambi, quello che io ho cercato di fare fino adesso. Io fino adesso ho cercato di fare in modo che all'interno del mio partito e soprattutto nei confronti del Presidente maturassero certe decisioni perché ci potesse essere una svolta, non c'è nessuna altra ragione, insomma, no? Certo. E ma questo documento, noi fossimo in grado di riprendere un percorso che ci consentisse, e se questo non è possibile è chiaro che uno poi deve prenderne atto, certo, insomma, a casa. E lei ne ha preso atto. Senta, Prodi si comportò meglio quando si dimise? Guardi, si comportò meglio D'Alema, a onor del vero, perché D'Alema ha preso atto di un risultato elettorale, peraltro elezioni regionali, quindi amministrative, e si dimise. Quindi secondo me dal punto di vista politico fece oggettivamente un'azione che va lodata e sottolineata. Cioè, ebbe più senso Prodi ebbe il coraggio, se vuole, di sfidare il voto parlamentare sapendo che le probabilità che quel voto lo penalizzasse. Però si comportò meglio D'Alema di Berlusconi come senso dello Stato. No, dico semplicemente che D'Alema ha preso atto che la situazione politica non era più compatibile con la sua presidenza. Giornale Radio, se no mi uccidono. Giornale Radio, se no mi uccidono. siamo qui 800 24 00 24, caro Parenzo. C'è questa nota del Quirinale su cui si discute molto. Nota sull'aggravarsi della posizione italiana nei mercati finanziari e sulla necessità di decisioni efficaci, in cui si parla di contatti avviati anche con una parte dell'opposizione che potrebbe sostenere le misure che vengono ritenute urgenti, su cui Berlusconi viene viene chiamato ad agire concretamente e subito in Parlamento. Altro segnale chiarissimo dell'evidente commissariamento del signor Banana. Vabbè, tu la metti così, segnale naturalmente. Ma comunque, guarda, io non ti voglio più dire nulla da oggi. Se ti piace così, cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, spread, bund e tutti che ci pigliano per il culo, se ti piace così, ma senti questa roba qua, ti piace così? Andiamo a sentire i titoli del TG3. Per carità. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Allarme Italia sui mercati, Milano perde il 7%, tassi BTP alle stelle, imprese e banche al Premier, misure subito, traga le conseguenze. Europa nel panico dopo la decisione della Grecia di indire un referendum sul piano di salvataggio, crollano i titoli bancari da Parigi a Francoforte. Papandreou al rapporto, domani vertice di emergenza tra il Premier greco, la Merkel, Sarkozy, Fondo Monetario e Unione Europea. Berlusconi rientra a Roma, subito le misure anticrisi, le illustrerò al vertice di Cannes, ma la colpa del crollo dei mercati è di Atene. Bersani telefona a Napolitano, Quirinale preoccupato, noi pronti a governo di emergenza, consultazioni con gli altri leader dell'opposizione. Nizza blindata per la marcia No Global, a pochi giorni dal vertice G20, davanti ai blindati giovani di tutta Europa mostrano archi e frecce, siamo come Robin Hood. Resta in ospedale Antonio Cassano, giallo sulla diagnosi, si parla di un ictus ischemico, il Milan domani alla fine degli accertamenti, saprete tutto. Televisione rumena, Parenzo, rumena, senti, senti cosa hanno copiato. Da come ragazzo mio, colpi di quale sto fatti di darmi le tutti, tutti per te. Roba da non credere, Ma cos'è? È la televisione rumena che ha riproposto la canzone di Pippo Franco che noi utilizziamo praticamente come sigla, senti. Vabbè. Denunziamo subito la TV rumena per plagio, subito. Allora, 800 24 00 24, Napolitano cosa ha detto? Servono larghe intese, con Berlusconi o senza Berlusconi, questo naturalmente si non vedrà dire, si ve- non può dire però cosa vuoi, vuoi interpretare le volontà e, le se- e gli scritti di Napolitano, non lo so, no, siamo arrivati anche a questo, avanti. No, allora, però mi pare adesso mi pare non sono un quirinalista, ecco, no, appunto, se non ha detto che bisogna fare per forza senza Berlusconi, ha detto che ci sono alcune forze dell'opposizione che sono disposte a votare dei provvedimenti. Vediamo quali saranno questi provvedimenti presentati e se avrà la forza Berlusconi di farseli approvare anche ma da una parte dell'opposizione. Giorgino Napolitano, a cui diamo un calorosissimo abbraccio, lui alla moglie Clio, perché decide di intervenire in un momento così drammatico? Ma come che perché? Perché è il Presidente della Repubblica. Ma perché vede che Berlusconi, che c'è un governo che si sta sfarinando minuto dopo minuto, aveva questa appena qua è sentito la tua... alla Zanzara Antonione Napolitano. Napolitano stava ascoltando la Zanzara dal suo ufficio. Antonio, io voglio io voglio bene ad Antonione, ma non credo che Napolitano stava ascoltando era o abbia lì. Ascoltato Antonione Antonione io, lei lì, che dice? Era lì al Quirinale con i corazzieri? C'è altre cose da fare. Mi sembra più mi sembra che abbia altre cose da fare. Senta, ma lei andrà al gruppo misto? Guardi, se non ci sarà un segnale vero di discontinuità è obbligatorio il passaggio a un altro gruppo, che sia il gruppo misto o un gruppo che si potrà costituire, mi auguro. Con chi? Con chi? Con tutti quelli che si renderanno conto che la situazione così com'è non può essere più sostenuta. Cioè lei dice è possibile che in Parlamento e alla Camera si possa fare un gruppo degli scontenti, chiamiamoli così. No, io non li chiamo scontenti. Come si possono chiamare? Come vi chiamate? Che ne so? Ah, guardi, intanto, realisti, scontenti, come... quelli che si rendono conto che la situazione è una situazione drammatica che sta precipitando. I responsabili. La giornata di oggi stia a testimoniare questo. Il fatto che il Presidente della Repubblica metta un comunicato con quelle parole, insomma, voglio dire, non è che tutti i giorni vediamo, no, certo, vediamo una cosa di questo ma tipo. Ma cos'è, un commissariamento, un commissariamento di Berlusconi, come dice Parenzo? Io penso che all'interno del Parlamento tutte le persone che riusciranno a capire che non si può più continuare in questa strada, dovranno fare un passo per cercare di contribuire non vi chiamate, dica la verità, sembra un po' un commissariamento di Berlusconi, però questo intervento di Napolitano così forte in cui dice anche parte dell'opposizione deve essere coinvolta. Guardi, non è il commissariamento di una persona o di un governo, è semplicemente una fotografia realistica della situazione. La situazione è talmente grave che non è pensabile di poterla affrontare senza avere una maggioranza ampia che sia in grado di fare anche delle scelte difficili e impopolari. Questo è un elemento di buon senso, neanche politico. Senta, per carità, non vi chiamerete mica responsabili se farete un gruppo parlamentare, no? Guardi, responsabili porta male, Guardi, sono molto scaramantico. Tutto tranne che responsabili. Senta, Renzi le piace? Renzi rappresenta la novità all'interno del Partito Democratico, non deve piacere a me. No, però sa, piace a moltissimi esponenti del centrodestra, Renzi, tanto che uno potrebbe dire perché. Ma sa, normalmente piacciono le persone che all'interno dello schieramento opposto creano problemi. Siccome Renzi crea problemi, piace di più al centrodestra che al centrosinistra. È molto probabile, per esempio, che la mia posizione oggi sia molto ben più, come dire, sostenuta dal centro-sinistra che non dal centro-destra. Non c'è dubbio. Però è anche vero, io ho una mia idea, Parenzo, sulla vicenda Renzi, perché siccome Renzi poi lo fa naturalmente a modo suo, siccome Renzi ogni giorno non spara palle incatenate contro Berlusconi dicendo che è il male, che è tutto, allora dà fastidio perché parla di altro, non è che parla ogni giorno di Berlusconi. E questo può essere, perché non fa dell'anti-berlusconismo la sua constituency, insomma, la sua ragion d'essere. Questo è il punto, e dunque dà fastidio a un sacco di gente a sinistra per questo. Questa è la realtà. Molto probabile. Allora, a lei piace Montezemolo, Antonione? Beh, Montezemolo è una persona che, insomma, ha dimostrato di sapersi fare, insomma, dal punto se ci mai ci sarà un suo movimento, una sua lista, un suo partito? Ma guardi, è una domanda alla quale, come dire, impossibile dare una risposta, non conosco qual è la proposta, quindi. Ci ha mai parlato lei con Montezemolo? No. Sì, ho avuto modo di parlarci, soprattutto quando facevo il sottosegretario agli esteri, avevamo dei rapporti. C'è una risorsa in futuro per l'Italia, per la politica, no, oppure secondo lei? Le persone che sono state capaci di dimostrare il loro valore nella professione che hanno svolto, secondo me sono risorse che vanno utilizzate anche dal punto di vista pubblico, quindi perché no? Dunque non c'è nessuna preclusione, ma dipende da lui, non dipende da me. Bene. Non ho capito. Solo una cosa voglio chiedere all'ottimo Antonione. Ottimo, e io lo so perché tu dici ottimo. Perché no, siccome. Ma io lo so perché, siccome adesso prende questa posizione, per te diventa che un idolo. Voglio chiedere all'Antonione, ma per lei che è un fondatore di Forza Italia, com'è che siete passati da Martino Marzano a Verdini? Com'è possibile? E alla Minetti? Dica la verità, c'è stata un'involuzione in quel partito che lei ha fondato? Guardi. C'è stata una? Una grande sofferenza, in tanti. Una sofferenza, passare da, come dici tu, sempre Martino alla Minetti, vergogna, e ha ragione, bisogna invitare tutti i giorni, tutti i giorni Antonione, tutti i giorni. Antonione, grazie, buona serata. Grazie a voi, grazie, buona serata. Mauro da Mantova, 800-24, ti piace molto, ma io lo so perché ti piace molto, lo so, vabbè, Mauro da Mantova, buonasera. Salve Cruciani. Dica. Ma perché io devo sempre sentire Parenzo, no? Parenzo. Guardi, a me chi storpia i nomi però mi dà fastidio, cioè mi viene prima un sorriso, poi mi dà fastidio. Cioè le dico subito la verità. Comunque, se lei vuole criticare Parenzo, lo critichi quanto vuole, ma non storpi i nomi che mi dà un fastidio. Verrei da lei e la strozzerei, Mauro. A Mantova, che peraltro è una città bellissima. Io bene lo stesso. Sì, peccato che siano tutti comunisti, però. Dove? A Mantova? Ma sì, guardi un po' lei. Ma insomma, adesso a Mantova. Non mi pare che siano tutti comunisti. Non mi pare? Perché lei crede che quel PDL che si è chiamato sia un PDL? È un PD-L. Perché la cosa che è stato il PDL qua a Mantova, la cosa è cambiato? Che è cambiato? Nulla. E vabbè, cosa vuole che le faccia io adesso, caro Mauro? Allora, sì. Una città che da 63 o 64 anni che è di sinistra, va sul PDL che è l'opposto, che c'è sì, uno si dovrebbe aspettare qualcosa di diverso, invece secondo lei non è cambiato nulla, ma siccome io non mi occupo di cose mantovane e non so niente, cosa vuoi che... È fuori alla Gazzetta di Mantova, amico mio, che ci chiama Radio 24. Vabbè Mauro, cosa ci voleva dire, su? Cioè, la Gazzetta di Mantova è di Benedetti. Oddio mio, non adesso ha evocato la Gazzetta di Mantova, Parenzo ha aperto il vaso di Pandora. Ci dica, esatto. Che ci deve dire Mauro? Cioè io mi chiedo una cosa, ma come si fa? Quello, ieri il discorso di Montezemolo, un governo di salute pubblica, ma non dovrebbe nemmeno aprire la bocca. Lui perché? Per fare il governo di salute pubblica, intanto lui e il suo parente Ekian, perché sappiamo tutti che Montezemolo è figlio abusivo di Gianni Agnelli e lo sanno anche. Ma che casi. Vuol dire? Ma cosa dice? A parte quello... Sappiamo tutti che se uno che non è imparentato con Agnelli, come mai che diventa il direttore di produzione sportivo della Ferrari? Al motivo. Vabbè, ma allora, insomma, di che sta parlando lei? Al di là di quello, ha mangiato, la famiglia Agnelli ha mangiato per 95 anni addosso allo Stato Italia. Vabbè. Adesso li ridiamo per altri 30 anni. Sì, però io non ne posso sentire. Mangiare anche al filo abusivo di Agnelli. Ma l'Italia, ma quand'è che diventerà una democrazia normale? Ma sappiamo tutti che Montezemolo i soldi insieme ai suoi parenti Elken, De Benedetti, che cosa? Non è suo parente. Abbiamo messo dentro pure De Benedetti, appunto. Vabbè, sono le 19:29, 46 secondi, è presto però per ubriacarsi a quest'ora, io direi che è molto presto, almeno aspetti un'oretta, un'oretta e mezza, insomma, o la fine della zanzara. È la verità che la gente non sa. Va bene, ci sono stato. Abbiamo la borsa, abbiamo la borsa. Ho conosciuto gente che ha lavorato l'UBS. Certo, la borsa, la borsa. Siamo qui, 19:36, 800 24 00 24. Marcello dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io ho fatto l'intervento prima quando c'era ancora quell'onorevole da Trieste, poi purtroppo se n'è andato. Però proprio a lui, a tanti come lui vorrei dire, è inutile che vengano a dire a noi che in Parlamento tutti la pensano come lui e non hanno il coraggio, perché io non credo che siano tutti debosciati parlamentari, semplicemente a lui fa più comodo uscire, e perché non dà l'esempio più alto che può dare, che è quello di dare le dimissioni? Perché chiedono di darle perché uno dovrebbe a Berlusconi? Perché uno dovrebbe dimettersi, scusi? Ma non condivide più la lista in cui si è fatto votare e non condivide la politica del capo del governo, si dimette, non c'è niente di... Secondo me più lapalissiano di così si muore. Invece andare nel gruppo misto e fare guerra, ma soprattutto fare terrorismo dicendo che tutti la pensano così dentro là, contribuisce peggio dell'opposizione a buttare giù il governo, è questo di cui non abbiamo bisogno. Ognuno ha diritto di esprimere le sue opinioni, come lei, come anche Parenzo, che non condivido niente di quello che dice, però le esprime, escluso quando dice a casa, che sembra veramente un pagliaccio, però a parte quello esprime delle opinioni personali. Rimani solo a battere le mani, continua a battere le mani, a spettacolo finito, rimani tu da solo, caro radioascoltatore. No, non rimango da solo. Io, nella tua solitudine. No, no, io sono assolutamente convinto che si debba fare qualcosa, ma non che debba dimettersi. D'altro canto, senza Berlusconi, qualsiasi ammucchiata si dovesse fare, non ha un leader, non c'è un leader così che riesce a imporsi da una e dall'altra parte. Continua a applaudire questa farsa ormai trasformata. Ma chi applaudisce? Ma non sta applaudendo, non sta applaudendo per niente il signor Marcello. Non sta applaudendo, anzi, io per esempio addirittura direi che dovrebbe fare Berlusconi, dovrebbe fare un governo provvisorio con Giannino, Renzi, Casini, cioè con dei personaggi, non con i partiti. L'alcol ormai è arrivato alle stelle. No, ma guarda, no, guardi che io non bevo, mi dispiace per lei. I fatti recenti dimostrano il contrario, diciamo. No, lei, Marcello non ha tutti i torti, grazie. Può chiamare tutte le ambulanze che vuole, ma il primo, il posto migliore sull'ambulanza ci dovrebbe andare lei, non mandare sempre gli ascoltatori. Bravo, però siamo bravo, tutti deficienti. Bravo Marcello, risponda a tono, ecco, risponda a tono. Però a questo, siamo tutti della gente che manda il cervello all'ammasso. A questo io populismo da quattro soldi, bravo. Non condivido le idee di Berlusconi, però sono un vecchio liberale che non ha più il partito e bravo, la coalizione che... l'unica che posso alla quale posso dedicare le mie energie è quella di destra, non è certo quella di Bersani. Ah, perché è liberale, non è perché certo sono liberali di... questi perché questi sono liberali, questo carrozzone. Ma se ha detto che non si riconosce, ma se ha detto che non si riconosce, e cosa rimane lì? Ascoltalo, rimane ascoltalo uno... ma non sta facendo, basta che uno, basta che uno gli dà torto, lui non ascolta più. Ma io ascolto perfettamente, ma lei sta applaudendo, ma non sta applaudendo per niente. A me, tra l'altro, Berlusconi con la sua politica in questo momento di incertezza mi sta veramente sulle scatole. E lo però dica, il problema, dica a casa, dica ma perché a casa, deve dire a no, casa? Non abbiamo leader, non abbiamo... Se Berlusconi va giù, un governo tecnico con il signor Binisbachi, magari così si leva dalla banca centrale europea. Mi perdoni, ma lei a questo governo tecnico chi lo farebbe presiedere? A Binisbachi. Sì, a Binisbachi. Che Binisbachi cos'ha? L'autorità per raccogliere tutti dalla Lega al PD, da SEL, ma ci vuole scherzando. Un tecnico come Amato, come il governo, come il governo Amato. A te, bravo, se ti piace così, se ti piace così queste cose senza così di tecnocrati, se ti piace no, così. Guardiamo avanti, non guardiamo indietro. Bravo Marcello. La politica ha dimostrato di essere ma falla finita, Margherita dalla provincia di Milano. Marcella, grazie. Margherita dalla provincia di Milano. No, buonasera. Mi sto divertendo. È Parenzo che parla con la figlia, dica. Sì, dunque, io sono una vecchia signora che ha l'abitudine di esprimere le proprie opinioni contrariamente a Parenzo, con buona educazione, con calma. Allora ne esprimo subito una. Ma guardi che Parenzo è una persona educata, non è che se uno è educato non può alzare la voce o comunque non può esprimere le opinioni anche in maniera forte, abbia pazienza. Margherita, dica. Io le chiedo scusa. Dunque, e quello che volevo dire, il motivo per cui ho telefonato, il principale, è che personalmente, e poi ripeto questo personalmente, sono molto infastidita quando sento ridicolizzare, imitare, attaccare, e dico che non sono della Lega, non lo sono, ma non sopporto bene questo atteggiamento nei confronti di un uomo anziano. Ma quale ammalato, sarebbe l'atteggiamento? Scusi, nel quale le sequele della malattia sono evidenti, per cui a chi si riferisce? Scusi, a chi si riferisce? Mi riferisco a Bossi, naturalmente. Non ho capito qual è il problema su Bossi. A Parenzo che tanto si compiace nell'imitarlo. No, però scusi, abbia pazienza, Margherita, abbia pazienza. Lì veramente siamo alla follia qui, Se non si può nemmeno imitare Bossi perché è mancanza di rispetto nei confronti di una persona che ha avuto quello che ha avuto, mi sembra una cosa veramente ridicola. Noi non... Ma sa, questa malattia lascia queste sequele. Ho capito, cosa vuole che le dica? Noi imitiamo Bossi per come parla adesso. Non è che si è ritirato a vita privata Bossi, sta lì è ministro, governa, dunque... È un'opinione e come tale l'ho espressa. No, l'altra cosa, avete parlato di Renzi. No, ma posso dire una cosa, Margherita, sulle imitazioni di Bossi? Del centrodestra, eccetera. Io una spiegazione ce l'ho. Su che cosa? Renzi esprime delle opinioni in modo educato. È un ragazzo educato, non fa un politico forse, però è un ragazzo educato. Dice delle cose anche forti, però le dice con buona educazione, le dice con garbo. Allora? Questa è una mia opinione e io credo che in questo momento abbiamo un grande bisogno di un po' di eleganza, di un po' di educazione. Francamente se ne sente il bisogno, Secondo poi me non c'è affatto bisogno né di eleganza né di buona educazione, quella ci dovrebbe essere comunque sempre, ma c'è bisogno di idee chiare. Grazie Margherita, sì, grazie. Marco da Imperia, buonasera. Buonasera, sono professor Parenzo, sono d'accordo con lei per quanto riguarda la necessità di idee nuove. Perché, cosa c'entra la buona educazione? Ma quella è data per scontata. Cioè, quello come minimo. I rapporti interpersonali si basano sulla reciprocità, secondo me. L'eleganza, sì, d'accordo, ma insomma, poi sì, l'eleganza andiamo è sempre avanti, una questione di gusti. Su. Ecco. Allora, quello che volevo dire, in primis, uno c'è qua, sento un attimo di eco. Dica, la sentiamo bene. Ok, allora, la prima cosa da dire è la necessità da una parte di mettere mano a una rivisitazione fiscale più efficiente. Sì, però adesso non ci faccia il programma prossimo 21, Marco. Ovviamente, bisogna essere presente di una cosa, però. Abbiamo coraggio di toccare una spesa in cui le partite correnti sono più del 50%. Vabbè, lo sappiamo, la spesa pubblica, però non diciamo sempre le stesse cose, le tasse, la spesa, lo sappiamo, bisogna vedere poi come si fa e chi lo fa. Poi... E questo è il problema, io ho apprezzato molto Renzi e mi è spiaciuto che una parte del PD che si definisce progressista e democratica non accetti questa voce fuori dal coro e bolli come eretico praticamente il suo pensare. Sì, l'accusa più ridicola in queste ore è quello di essere neoliberista, una cosa patetica, ridicola, una cosa che non ha alcun senso, semplicemente perché Renzi ha espresso delle opinioni un po' diverse rispetto all'establishment del Partito Democratico su Marchionne, sui licenziamenti, senza dire per carità che bisogna licenziare più facilmente, ma basta andare solo un po' leggermente al di là di quello che dice la dirigenza del centrosinistra da tanti anni, che diventi automaticamente Blair, neoliberista, vicino alla Thatcher, di centrodestra, e tutto. Una cosa assurda. Io penso che nessun imprenditore che abbia che non sia folle, pazzo, che abbia dei dipendenti in gamba, che adesso che li può licenziare più facilmente, li licenzi. Ma dove sta questa cosa? Va bene, Marco, grazie. 30 secondi, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Sai chi c'è con noi, caro Parenzo? Caro Parenzo, sorpresona questa sera. Sorpresona, tu sei nel Granducato di Siena e ti sei specializzato recentemente in che cosa? Dimmi, in che cosa ti sei specializzato recentemente? Chi hai ingannato, per carità, con il mio contributo, il mio validissimo contributo in quello che Aldo Grasso ha definito come? Come l'ha definito? Non mi ricordo, scherzo, come ha detto Casereccio, alquanto artigianale. Alquanto artigianale. Ma lasciamo la risposta. Abbracciamo forte il signor Grasso. Il signor Grasso. Lo abbracciamo fortissimo. In cosa ti sei specializzato? Però forse ha ragione, non lo so. Mi sono specializzato in macroeconomia, non credo. No, quello è Bini Smaghi, è esperto in macroeconomia. Nell'imitazione del signor Bossi. E qui abbiamo il figlio di uno dei figli di Bossi, Riccardo Bossi. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Come sta? Come sta? Ma questo molto è un colpo da maestro. Voi come state? Allora, molto bene. L'imitazione di suo padre di Parenzo le piace? L'ha sentita qualche volta? No, non l'ho sentita. Vabbè, come non l'ha sentita? Che sia così eccezionale. Forse riesco a farla meglio io di Parenzo. No. Perché lei riesce a fare imita suo padre? Già il mio tono di voce, insomma, è abbastanza... Beh, ci provi, su. Ci devo provare a imitare mio padre, come se basta che io oscuro un attimino di più la voce, come se... ma faccia la cosa che dice di solito, lo sa qual è, no? Di abbastonate ai giornalisti, vi spacchiamo la faccia. No, questo non è una cosa che dico spesso, no. Come, ultimamente si è specializzato su questa cosa qui. Si è specializzato, sì. Ma questo lo dice lei, comunque, va bene. Va bene, andiamo avanti. Senta, abbiamo fatto federalismo fiscale. Guardi che non è vero, ci sono naturalmente persone che dicono che lo imita molto bene, persone che dicono che lo imita, diciamo, così. L'imitazione con Bini Smaghi, nello scherzo che abbiamo fatto, in cui suo padre non c'entra niente, abbiamo utilizzato biecamente suo padre per arrivare ad un risultato, in realtà non era tra le migliori, giusto, Parenzo? Perché era rincorso dalla figlia. Insomma, c'era un po' Pirata dei Caraibi, avevo dei problemi strutturali. Vabbè, allora, innanzitutto presentiamo Riccardo Bossi ai nostri ascoltatori. Riccardo Bossi è il figlio di Primo Letto, no? Sì, diciamo così, di Primo Letto, della prima moglie di Umberto Bossi, ha 31 anni, sbaglio? Sì, esatto. 31 anni, e di mestiere cosa fa? Il pilota di rally? Lo facevo, sì, adesso corro in pista, sì, adesso corro per Audi. Però lo fa per diletto oppure per mestiere? No, lo faccio per mestiere. Con i rally adesso, invecchiando, scherzo, passo la pista, non ha proprio stato un cambio importante. In pista dove? In pista, in giro per l'Europa, per il mondo, insomma. Ma in che circuito? Io non ci capisco niente. Qual è la categoria? La categoria? teoria il campionato si chiama Superstar Series, che è esattamente lo stesso campionato fatto naturalmente con le automobili, uguale al Superbike, quindi si corrono bene o male gli stessi circuiti dove vanno a correre le moto del Superbike. Ma quanto si guadagna? Quanto si guadagna a fare questo mestiere qua, signor Bossi? Ma dipende, insomma. Si può guadagnare anche bene? Si può arrivare a guadagnare anche bene, sì, certo. Cioè la 100.000 all'anno si tira su? No, ma su, sì, sì, sì. Si riesce? No, no, io non so. Le confesso. Bravo, si impegna. Le confesso che sono il ministro dei trasporti, visto che guida le no. Allora, ma suo padre ha ancora paura del fatto che lei guida, oppure gli è passata questa paura? Ma no, devo dire la verità, che nell'ultimo periodo gli è passata, mi segue con attenzione. Dire che non c'è gara dove lui non intervenga, insomma, telefonicamente nel sapere come procede prove libere, qualifiche, piuttosto che gara, questo mi fa molto piacere. Probabilmente apprezza di più la pista, anche perché rispetto al rally è sicuramente più sicura, insomma, è una situazione più sicura rispetto a correre su strade piuttosto difficili. Certo, ma lei non è anche un'attività imprenditoriale intorno a Barese? Sì. No, per carità di Dio, quello è il mondo delle corse, poi io mi occupo anche sempre di sport, perché guai se non mi occupassi di sport non riuscirei. E che fa? E che fa? Ho due società, tre società, una si occupa di sicurezza stradale, quindi è molto benefico, le altre due si occupano di sport a livello professionale, quindi appoggiando strutture che di sport ne fanno un vero e proprio un vero e proprio. E la politica? La politica per il momento la guardo con molta attenzione tutti i giorni, come giusto che sia, insomma. Però per il momento la osservo. Cioè, voglio dire, lei all'inizio era diventato assistente parlamentare di l'onorevole Speroni al Parlamento Europeo, nostro amico che salutiamo. Sì. E dopodiché, per le polemiche che ci sono state, quanti anni aveva quando fece quell'esperienza? Avevo 24 anni. Polemiche per lo stipendio, eccetera, eccetera, che qualcuno riteneva troppo alto. Polemiche veramente sterili, però vabbè, questo è quanto. Quindi avevo fatto questa esperienza presso l'Europarlamento a Bruxelles, esatto, come assistente. E dopo basta, cioè l'idea di fare politica nel senso attiva di nuovo nella Lega, di avere magari un incarico, di entrare in Parlamento, entrare in Parlamento per esempio, le piacerebbe o no? Io nella Lega ci sono tutti i sacrosanti giorni, perché c'ho l'ufficio lì. Dove c'ha l'ufficio? Di Bellerio? La Lega Nord ha un'associazione sportiva da molti anni legata anche al CONI, quindi Sport Padania, di conseguenza io ci lavoro lì. Non è come si chiama? Sport Padania? Lì. Non sono presente nella politicità. Politicità politico della Lega Nord, ma questa è una scelta mia, perché io penso che sia la vita occuparsi di ciò che uno è in grado di fare o ciò che uno ama fare. Per il momento la politica la lascio fare a mio padre, che gli viene così tanto bene, e a suo fratello, poi a suo fratello. A mio fratello, ma scusi un attimo, ma lei che si interessa di sport eccetera, lo farebbe, che ne so, in futuro il ministro dello sport? Cioè, sarebbe nelle sue competenze, no? Ha già avuto, voglio dire, un ministro dello sport, ma lo sport è un argomento molto serio, quindi non va trattato con leggerezza, va trattato con assoluta serietà, perché... Cioè, si sentirebbe in grado di farlo? Sì. Adesso come adesso fare il ministro dello sport, probabilmente no, dovrei crescere ancora, e dopodiché, fatte le esperienze del caso, probabilmente uno potrebbe fare anche le valutazioni. Sicuramente mi piacerebbe lavorare nel mondo della politica / sport, poi da lì a fare il ministro dello sport. Insomma, Cioè, voglio dire, entrare in Parlamento non è una sua ambizione, cioè primo figlio di Bossi, politica la fa suo fratello, che ha preso le preferenze alla regione Lombardia, che ne so, nella sua testa, no? Tra qualche anno magari mi piacerebbe fare un'esperienza in Parlamento, alla Camera. No, ma certo, ma assolutamente sì, ma infatti io non ho mai escluso questo. Cioè, gliel'ha chiesto a suo padre? Ma non ne abbiamo, cioè ne parliamo in maniera diversa, cioè io parlo del mio lavoro molto spesso, tutte le settimane, con mio padre per fargli vedere eventuali upgrade lavorativi che uno fa, per insomma mostrargli il lavoro svolto, e se ne parla insomma del fatto che magari uno possa anche fare le sue valutazioni, ma sempre riguardanti lo sport, mai inerenti ad altro, perché torno a ripetere, uno si occupi di ciò che sa fare. Ma dietro il giro della Padania c'era lei come uno degli organizzatori? No. No, suo fratello. Gli ha fregato il lavoro suo fratello? No, non ha fregato nessun lavoro. lavoro perché non c'era nemmeno lui. Ma nella stazione di Padania c'erano persone che si occupano di ciclismo e... Sì, lo so, il sottosegretario all'interno. Ecco, ma come mai? Ma perché? Di Padania in automobile o quant'altro che si farà, allora sicuramente... Che si farà un giro della Padania in... Che si farà? Un rally della Padania? Potrebbe essere. Beh, questa è buona, eh? Questa non è... Cioè, dopo il giro della Padania, il rally della Padania. Ma bellissimo. Il rally della Padania? No, ci sarà, potrebbe essere in preparazione, ce l'ha detto adesso Riccardo Bossi. No, ho capito, coming soon. Ma che cos'è? Un progetto del genere? Sta lavorando su un progetto del genere? Potrebbe essere che lavoreremo, ho utilizzato il condizionale. Potrebbe essere che lei parla come il Quirinale, parla. Lei ha la voce, come ha la voce simile a quella di Salvini. Di Matteo Salvini, se non sbaglio. È un po', cioè, qualche rassomiglianza. Qualcuno mi suggerisce un'altra cosa. Non le sta molto simpatico Salvini? No, no, come no, un amico, gliel'ho appena detto. Un amico, no, non l'avevo sentito bene. Sì, certo. La voce, ecco, ma come mai? Cioè, Renzo siede in consiglio regionale, ha preso i voti, quindi per carità. E lei invece comunque ha più esperienza, magari, no? Perché è più anziano, ha lavorato di più. Più anziano, adesso c'ha 31 anni. Più anziano, ha 31 anni, adesso è un ragazzino. Cioè... È rimasto un po' col cero padano in mano, diciamo. Ma perché no? Col cero padano in mano? No. Queste sono vostre elucubrazioni. Prendo le distanze tranquillamente, perché io non sono rimasto assolutamente con nessun tipo di cero padano tra le mani. Sono scelte, la mia scelta di vita è una scelta di sport, non è una scelta di politica sul campo. La scelta fatta da mio fratello Renzo è diversa, di conseguenza ha fatto tutto l'interim per arrivare al consiglio. Non è un po' invidioso, no? Non è un po' invidioso? No, mai. No, mai. No, mai. Lo reputo un sentimento patetico, quindi detto francamente l'invidia. Dovrei essere invidioso di mio fratello che fa un mestiere a cui lui piace. Assolutamente no. Ma come lo vede suo fratello? Che potrebbe fare? Potrebbe essere l'erede di suo padre? Potrebbe fare un giorno il segretario della Lega? Ce lo vede oppure no? Guardi, mi sembra prematuro parlarne. Io cioè, è troppo giovane comunque per arrivare... Debba condurre uno stile di vita professionale e privata adeguato al ruolo che lui ha. Poi, cioè? Attualmente, nella crescita professionale sua all'interno della regione, può semplicemente far bene, quindi deve impegnarsi, deve lavorare seriamente. Ma è prematuro per parlare di successione? È assolutamente prematuro. Che significa stile di vita? Deve condurre uno stile di vita? Perché che stile di vita ha? Un po' troppo... No, io intendo dire un generale, in generale, non è che mio fratello non ha nessun tipo di stile di vita fuori dagli schemi, anzi, ve lo dico, per crearsi comunque una situazione importante che lo possa portare a crescere, deve andare avanti a lavorare e farlo. Ho capito, comunque prematuro. Torniamo subito, Riccardo Bossi, simpatico però, no, Parenzo? Che molto, dici? Molto simpatico. Forse più, anche più, no, nel no, parlare, molto più. Vero, no, molto più del fratello Renzo, un po' Renzo, più giovane certamente, lui ha l'eloquio più sciolto. Siamo qui 800 24 00 24, caro Parenzo, in questa giornata molto complicata in cui c'è stato questo appello di Napolitano alla maggioranza ma anche al governo, diciamo la verità, per proporre subito i provvedimenti alla Camera e trovare... Mi piacerebbe sentire un commento sapidissimo di Bossi su questa vicenda. Cioè, caro Riccardo Bossi, Berlusconi se ne deve andare o no? Va bene che lei non è come dire dentro le cose politiche, però ha il suo ufficio a via Bellerio, frequenta immagino gli ambienti della Lega, è il figlio di Bossi, secondo lei Berlusconi via subito oppure no? Oppure si deve continuare? No, deve assolutamente continuare questo esecutivo, io penso che debba andare avanti. Sì. Adesso sicuramente hanno attraversato adesso un momento di difficoltà, questo è palese, chiaro, voglio dire. Ecco. Ma la base della Lega non lo sopporta più Berlusconi, lei lo sa, no, Riccardo, no? Ma adesso insomma mi sembra così, non è che la base della Lega non lo sopporta più, è che sicuramente il Presidente del Consiglio nell'ultimo periodo è stato un po' forse preso anche dalle proprie questioni più che da... Cioè che ha fatto? Troppe donne? No, adesso non sono le donne, anche questi processi qua, e quant'altro, insomma, sono un po' più, ha portato forse un po' più di attenzione, un po' meno di attenzione su quello che doveva, che deve svolgere assolutamente, però questo esecutivo deve andare avanti, adesso anche il momento di crisi dell'Europa stesso non è facile, insomma, si è sentito la Grecia. Vada avanti, dice Riccardo Bossi, figlio di Umberto Bossi, il governo deve andare avanti, rassegnati Parenzo, rassegnati, che devi rassegnare, se lo dice Riccardo Bossi, evidentemente, cioè suo padre, scusi un attimo, signor Bossi, suo padre, Berlusconi, che legame ha? Non lo mollerà mai, diciamo la verità. Difficile. Il legame tra di loro è un legame legame assolutamente buono. Che legame è? Un legame tipo, ecco. Cioè un legame veramente tipo Cruciani e me? No, adesso che ne sa lui del rapporto che c'è tra di noi? Cioè, non esagerare, cioè che tipo no, di... è un rapporto sicuramente fatto da due persone che si conoscono molto bene. Cioè si vogliono bene? Si vogliono bene anche? Scusi? Si vogliono bene secondo lei? Ma io penso di sì, assolutamente, ormai sono tanti anni che si frequentano nell'ambito lavorativo e anche in quello privato tra loro due, insomma tra due uomini che comunque si scambiano continue opinioni, anche messaggini, mi sembra un rapporto assolutamente buono, poi è chiaro che ognuno dei due ha le proprie idee, soprattutto mio padre, quindi è normale e naturale che lavorativamente tenda a portare acqua al proprio mulino, questo mi sembra. Senta, ma il successo, certo, il successore di suo padre, io sono molto curioso di questa cosa, quando sarà? Sarà un boss? Cioè, innanzitutto quando sarà? Secondo lei... Mi avete già fatto un annetto fa quando mi avevate chiamato su questa domanda qui. Lei dice... Allora, il successore di mio padre in questo momento non esiste, è mio padre, punto. Non ci può essere nessuno... Possiamo parlare delle persone ottimi, strepitosi, bravissimi collaboratori che da sempre sono vicini a mio padre, parlo di un ottimo ministro degli interni, Roberto Maroni, sì. Parlo di Roberto Calderoni, certo. Parlo di Giancarlo Giorgetti, sì. Parlo di tutte queste persone... Però nessuno arriva lì, nessuno arriva a quel livello, diciamo, no? Quello è, non è che è un livello, lui è lui e deve giusto che sia così, cioè non vedo perché si debba parlare di qualcuno. Vabbè, ma non è uno scandalo parlare di successione dopo un tot di anni, no? Di mio padre voglio dire, è un leader, sì. La Lega Nord sotto molti aspetti è lui, ma lui che comunque gli è stato permesso anche questa crescita grazie anche a un decide tutto lui, diciamo la verità, decide ma tutto lui. Esiste il cerchio magico o no? Ecco, questo famoso cerchio magico esiste o no? Il cerchio magico del circo è questo. No, però esiste, diciamo la verità. Magico, il cerchio magico è, se mi permettete, definirei una sorta di invenzione dei giornalisti. Dai giornalisti, ma esattamente. Cioè, qui si parla di persone che sono vicine a mio padre. Sì. Anche dopo questo fatto brutto, insomma, che dopo la malattia, certo, di persone che lo hanno aiutato, che lo aiutano a lavorare e non solo, quindi non parlerei di un cerchio magico come se fosse qualcosa di segreto. No, però esistono un gruppo di persone, esiste un gruppo di persone che vanno, che ne so, da Calderoli, dalla moglie, da Rosimauro, da Reguzzoni, eccetera, eccetera, che sono considerate molto vicine a suo padre, a differenza di altre. Questo esiste. Sì, ma questo è sempre esistito. Cioè, non è che. Cioè, per esempio, lei ci crede a questa cosa che è stata pubblicata anche da Panorama con grandi polemiche, ma che, no, di cui tra l'altro non capisco l'arrabbiatura di Bossi. In quest'articolo di Panorama si diceva semplicemente che non è sua madre, ma l'attuale moglie di Bossi è una sorta di consigliera molto, molto ascoltata nella Lega. È così normale, o no? È normale. Ma penso che sia anche abbastanza normale. Le faccio, cioè, è vera questa cosa, insomma. Guardi, le rispondo facendole una domanda. Se lei, io non so se lei è sposato o meno, se lei è una moglie o meno. Allora? Ma probabilmente in molte situazioni si consulta con la propria moglie, con la persona che ha a fianco, quindi non vedo un atto di gravità. Cioè non è una sorta di, no, di come è stata definita, di no, anima nera, di insomma di zarina nella Lega. Come sta parlando dell'articolo di Marco Travaglio? No, dell'articolo pubblicato su Panorama. Cristina Giudici di Panorama. Suo padre se l'è presa moltissimo per questo articolo pubblicato sul Panorama, ha chiesto addirittura la testa del direttore. Sì, sì, qua allora ho capito perfettamente di cosa stiamo parlando. Mi scusi, prego, non si preoccupi. Guardi, le rispondo così: e mio padre so che si è incazzato su questa questione. È incazzato moltissimo, sì. Si è incazzato molto, ha fatto bene. Anche perché io ritengo che comunque sia la Manuela è la moglie di mio padre e come tale debba essere. Questo non c'è dubbio. Ma non è che si dice che è una criminale, anche. Si è detto che semplicemente è una che sta dietro molte decisioni. Che... Però lo si fa sempre in una sorta di tono o ironico o di polemica. Questo personalmente a me non piace. Comunque ha fatto bene a incazzarsi. Ha fatto bene a incazzarsi. Cioè, anche quando dice che i giornalisti devono essere presi, vabbè, naturalmente spero in senso metaforico, a legnate, eccetera, fa bene suo padre a dire una cosa del genere. Naturalmente nel senso metaforico, però mi passi questo termine, i giornalisti a volte, abbia pazienza, rompono sempre le scatole su anche i coglioni ogni tanto. Anche i coglioni, sì, soprattutto i coglioni rompono, e quindi a volte vanno anche, insomma, lasciano il tempo che trovano. Eh beh, ho capito, però fanno il loro mestiere, sfrucugliano, fanno, che vuole fare? Capito, però c'è cioè, mestiere, allora facciano i giornalisti di gossip, voglio dire, non fanno. No, ma anche lei ha detto giustamente nella sua, della sua, come dire, straordinaria trasparenza. Beh, è normale che un uomo si consulti con la propria moglie e compagna nelle decisioni importanti, ha detto anche lei, quindi. Ma io non ci trovo nulla di male. Cioè la signora Marrone, Emanuela Marrone, entra nelle decisioni politiche della Lega. Abbia pazienza, io sono un ragazzo giovane, comunque un piccolo imprenditore piccolissimo che sta crescendo nella sua realtà lavorativa, e se io devo prendere le decisioni ho una compagna e mi capita di consultarmi con la mia compagna, non ci trovo nulla di male. Non è che il manager che lavora con me o le persone che lavorano insieme a me si debbano offendere del fatto che io possa consultarmi. No, ma no, è un po' diverso, ma è partito rispetto alla, però è vero che la signora Marrone entra nelle decisioni politiche della Lega, è così, cioè è un dato di ma evidentemente se la signora Emanuela Marrone, che io conosco molto bene, entra in queste decisioni perché gli è concesso di entrare. Ah, certo, non c'è dubbio. Lo concede mio padre, quindi voglio dire, se questo accade, utilizziamo il verbo condizionale, sì. Sì, no, se accade, lei lo sa se accade o no, ci dica, accade o non accade, accadrà immagino. Ma può essere che sia accaduto. Non c'è niente di male, non c'è niente di male. Ma io sono solo nel loro. Io innanzitutto vivo da molti anni da solo, quindi non il papà che frequento, non la frequento tutti i giorni 24 ore su 24. No, certo. Non posso dirvi a voi se in un momento della giornata loro due discutono meno della politica o di quello che può accadere tra mio padre e Berlusconi, dell'esecutivo, di quello che c'è, non lo so. Quindi è inutile rispondo. Potrebbe accadere, ma non ci trovo nulla di male in questa cosa qua. Mi sembrano veramente polemiche sterili. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo per l'ultima parte con Riccardo Bossi, pilota di auto, imprenditore, figlio di Umberto Bossi. Forse ci ha detto, forse chissà, la vita, no? Nella vita possono succedere tante cose, forse in politica chissà tra quanto, non so, fra 2-3 anni, magari nella prossima legislatura, no, caro Bossi? Lo vedremo, insomma. Lo vedremo. Comunque c'è nella sua ambizione, c'è questa cosa qui, non c'è dubbio, nella sua testa, nella sua testa c'è. Sono assolutamente un uomo ambizioso, quindi nella sua testa c'è. Sempre avanti. Zanzara Party di questa sera qui su Radio 24, mentre il ministro La Russa viene fischiato al Festival di Roma, il Festival del Cinema di Roma, e Claudio Amendola, l'attore Claudio Amendola, volto Mediaset eccetera eccetera, ma questo forse non c'entra, ma lo volevo dire, fa cenno alla folla di alzare il volume dei fischi. Fa così, no? Quando si alzano le mani, adesso lo vedete, di si più, alzano di le mani, più, di più, alzate il volume dei fischi. Per il ministro La Russa, che era andato a vedere Il cuore grande delle ragazze, film di Pupi Avati. Film di Pupi Avati. È con noi in collegamento da Milano, credo che sia a Milano, oppure in provincia di Varese, a casa sua, non lo so. Riccardo Bossi, figlio di Umberto Bossi, imprenditore, pilota, eccetera, eccetera. Vuole parlare della mossa di Papandreou? No, la mossa di Papandreou no, che per me è una follia la mossa di Papandreou di indire il referendum, è una follia assoluta. Ma magari il figlio di Bossi ha un parere sulla mossa di Papandreou. Ma adesso non lo pigliare per il culo così, no, in maniera. Ma perché dici così? Scusa, abbiamo perché fatto io ti conosco, perché ti conosco. No. Allora, no, Riccardo Bossi, io volevo chiederti una cosa, ma nella contesa che c'è stata tra Tosi e suo padre, suo padre che ha dato dello stronzo a Tosi, porta ai fascisti, eccetera, per alcune interviste concesse al signor Tosi, sindaco di Verona, poi c'è stata una sorta di pace nei giorni scorsi. Insomma, suo padre non ha un po' esagerato con sto stronzo? Adesso diciamo la verità, stronzo a Tosi, stronzo a Casini, ci dica qualcosa. Dice che è esagerato, insomma, d'altronde è fatto così, dice lei. Sono assolutamente sì. Cioè si può permettere di tutto suo padre? Si può permettere nelle sue scelte politiche una serie di cose. Diciamo che dire dare dello stronzo a qualcuno non è proprio una scelta politica. No, è una scelta sua, quindi avrà avuto assolutamente le sue buone motivazioni per farlo. Ma è un momento difficile o no per la Lega, secondo lei, Riccardo? No, non è un momento difficile, è un momento difficile in generale. Però l'appoggio a Berlusconi lo pagherete a livello elettorale? questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, perché sicuramente una parte dell'elettore è incazzata. E quindi, appunto. Dunque ci perdete un po'. Con anche delle ragioni, con anche delle ragioni. Ci perdete un po'. Potrebbe anche essere che questa cosa qui porti poi dei frutti non piacevoli, insomma. Però bisognerà lavorare forte. Sì, quello non c'è dubbio. Quello tutti in generale. Poi dopo le urne diranno la loro, però in questo momento sicuramente è un momento in generale difficile, di conseguenza. Però non cerchiamo di non dire cose per non dire lei, io lo capisco che lei vuole, cioè ha difficoltà, perché ogni sua parola poi viene interpretata come per carità, però poi viene interpretata magari male. La cosa mi farebbe altamente girare le palle. I coglioni anche. No, ha ragione. Senta, quindi, una cosa, ma la secessione lei la vuole o no? Ma la secessione non è una cosa così brutta. Non è brutta la secessione. No, non è una cosa così brutta. Se è fatta bene. Se è fatta bene, che vuol dire? Cioè, senza le armi, innanzitutto, o sbaglio? Beh, naturalmente. Voglio dire. Che ne so, magari lei pensa che invece a mali estremi, rimedi, si possono utilizzare anche le armi per la secessione. Che ne so. Ma cioè, fino a dove arriva la Padania? O no? Senza armi. Senza armi. Non si intende fare una valutazione veramente attenta. Io penso che se con un buon federalismo si possa già cominciare a fare una serie di cose. Comunque la secessione non è una cosa malvagia come prospettiva. Non è una cosa malvagia. No. Per la maniera giusta. Ma dove arriva la Padania, secondo lei, come confini? Siamo qui, c'è sempre. La Toscana è ancora in Padania. Scusi. La Toscana è in Padania. La Toscana è ancora Padania o no? Ma il confine geografico della Padania è un confine piuttosto esteso. Secondo me la Toscana, tutto sommato, ci rientra. Meno male. Cioè, tu rientri in Padania, caro Parenzo. Non sfuggi a questa cosa. In sostanza, la Padania è la vecchia linea, come si chiama? La vecchia linea gotica, no? Diciamo la vecchia linea gotica. Ma la Padania è anche una regione. Dove a prescindere dal confine geografico è sicuramente una delle zone più produttive. Su questo non c'è dubbio. A livello europeo. Le Marche ci sono o no? Le Marche, adesso facciamo il gioco delle regioni. Adesso mi sembra di ragionare un filino. Se c'è la Toscana, ci sono anche le Marche. La Padania, per quello che io poi la guardo dal lato, dal punto di vista produttivo. No, ho capito, però se c'è la Toscana ci devono essere forse anche le Marche, caro Riccardo, altrimenti dove andiamo? Dobbiamo inserire anche le Marche, noi inseriamo anche le Marche. E l'Umbria pure, a quel punto diciamo così. Allora poi andiamo anche al Lazio. No, Lazio no. Umbria, Marche, Toscana. Umbria, Marche, Toscana, la chiudiamo lì. Vai. Mettiamo il confine là, va bene? Mettiamo sto confine là. I ministeri a nord non sono una buffonata, caro. Lei è un imprenditore, piccolo imprenditore. C'è mai stato a Ponzale? Gli uffici ministeriali non sono dei ministeri, come voi ben sapete. Vabbè, gli uffici, ma è una buffonata. Quando ascolta, non, magari chi non è proprio informato sulla questione gli dice, cazzo, hanno anche spostato i ministeri. Ma no, i ministeri, quattro uffici che non servono a niente. Dei ministeri, che sono stati spostati a Monza, per l'esattezza. C'è mai stato lei? No, è una buffonata, questa è la domanda. Ma non è una buffonata, perché è una buffonata? È una roba. Io non la vedo assolutamente una buffonata. Se poi questi uffici non dovessero lavorare, allora può diventare veramente una buffonata. Ma non c'è nessuno fino adesso là. Non c'è un ufficio. Se lei sposta semplicemente una parte del lavoro a Monza, insomma, quello che è, rispetto, decentrando un filo alcune cose da Roma, non vedo mica la buffonata. Perché deve essere una buffonata? Ma pare che insomma per adesso non sia una realtà. Scusi, vediamo il ministero a volte a una realtà aziendale. Sono molte aziende che hanno sedi spostate in altre location e non magari nella location di origine per far sì che il lavoro venga fatto. Sì, ma il problema è che poi non vengono. La cosa non è. Non c'è andato mai nessuno. Comunque, lasciamo perdere questo argomento. Affrontiamone un ultimo che è questo. Io vorrei capire, ma lei è iscritto alla Lega? Sì. E ha sempre votato Lega nella sua vita? Sì. Sempre? Sì. Sempre, no, ero curioso perché qualcuno mi aveva detto che in realtà poi aveva detto una gran puttanata comunque. Questa è bella, una puttanata comunque. Senta, qualcuno diversi Lega, ho sempre votato Lega e ci mancherebbe che diversi parlamentari della Lega ci hanno sempre detto, vabbè, insomma, alla fine quali sono queste discussioni? Nella Lega c'è uno solo che comanda ed è meglio così. Anzi, ma io sono pienamente d'accordo. Cioè, mio padre comanda la Lega Nord, è giusto che sia così, finito, non ci sono discussioni, non si devono fare troppe discussioni. troppe discussioni sono anche sbagliate, no? Dibattito interno. Ma troppe discussioni, poi uno si portano magari a mali pensieri. Sì, per carità. Cioè, il dibattito, questo famoso dibattito interno, alla fine, a che serve fare un dibattito interno? No? Come non serve assolutamente a nulla. A nulla, benissimo. La ringrazio. Uno che decide e basta. Uno che decide e basta, che sia Bossi adesso. È la cosa migliore. Ecco, io, lei, se dovesse proprio scegliere tra Maroni e Calderoli, diciamo che sono i due più. No, questo me lo deve dire, però. Conosco talmente bene sia Maroni che però, Calderoli, sono persone che rispetto tantissimo. Però tra i due, se proprio dovesse scegliere, mi dica un nome. Se proprio dovessi scegliere, le rispondo così: io non scelgo. Ho già scelto di natura la fortuna di essere figlio di un grande uomo come mio padre. A chi lo paragona suo padre come leader, come nella storia? Chi lo supera? Mio padre basta, è solamente lui. Vabbè, un paragone, non so. Che... Ma non c'è troppo fenomeno per paragonarlo. Troppo, cioè addirittura. Troppo fenomeno per paragonarlo. Grazie. Buonasera. Traffico. Arrivederci. Traffico. Siamo qui, 800 24 00 24, sopravvissuti, caro Parenzo, sopravvissuti. Assolutamente. A tutto, al crollo di Piazza Affari, agli ascoltatori, agli ospiti, qualcuno. Antonione, Riccardo Bossi, qualcuno dicevi? Qualcuno, cari amici della Zanzara, un giorno... Fai un bel editoriale, su. Ci spiegherà come mai il signor Lavitola parlava al telefono col numero 2 dei servizi segreti. Ma ti rendi conto che sta crollando tutto? Dai troppa importanza al signor Lavitola. Ma ci sono delle cose pazzesche. Dai troppa importanza a questa vicenda del signor Lavitola, che è semplicemente un traffichino, un traffichino. Ruffianerie, grandi ruffianerie di Stato. Ma dire, adesso mi viene veramente da piacere, cioè voglio ridere, ma mi viene da piacere. Le lacrime mi vengono. Le lacrime, fatti venire le lacrime. Cioè, sta venendo giù il disastro. E c'è ancora qualcuno dei radioascoltatori della Zanzara che è lì ad applaudire. Ma ad applaudire uno spettacolo finito. Ma vi rendi conto? Antonello dalla provincia di Caserta, buonasera. Ma perché Lavitola parlava con uno dei servizi segreti? Ma chi se ne frega, Antonello dalla provincia di Caserta. Ma buonasera. Chi se ne frega? Antonello, provincia di Caserta. Pronto, buonasera. Sì, ma sai quante persone parlano con il numero 2 dei servizi segreti, Parenzo? E non si sa. Ma Lavitola è un traffichino, un uomo che cerca di avere contatti con la politica per i suoi fini personali, per fare politica, per i suoi affari, per il suo giornale, eccetera. Ma non mi piace, il lobbismo esiste da quando esiste la Repubblica Italiana. Su, il piccolo lobbismo di piccolo cabotaggio, dai, su. Non sarà mica il problema, Lavitola, adesso è diventato il mostro, Lavitola, su. Grazie per quei documenti che mi hai dato, li verifico venerdì. Vabbè, pazienza, Antonello dalla provincia di Caserta, come se non esistessero queste cose, come se queste cose di... È normale. Ma non sto dicendo che è normale, ma sì, è abbastanza pesce, normale. Un commerciante di pesce, editore dell'Avanti, parla col numero 2 dei servizi segreti. Sì, è abbastanza italiani. Normale quando la politica è fatta in questo modo, con piccole lobby che cercano di avere favori personali. Quando la politica conta troppo, molti cercano di avvicinarsi alla politica per ottenere favori. Ma non sto giustificando niente, non sto giustificando nulla. Vabbè, le mani, non hai capito nulla di quello che ho detto. Antonello della provincia di Caserta. Ho capito, però. Riesco? Sì, buonasera. Dica. Allora, innanzitutto volevo precisare a Parenzo che probabilmente è uno dei milioni di lavoratori che Berlusconi ha fatto lavorare, perché ormai è diventata una professione essere anche berlusconiano, quindi lui e Fratelli Guzzanti e quant'altri. Cioè, lei sta dicendo che Parenzo, fa di professione l'anti-berlusconiano. Ha trovato un filone d'oro, anche lui. Ha trovato un filone d'oro. Filone d'oro? Io dico quello che penso e basta, che filone d'oro. È libero di fare quello che vuole. Però io questa qua è una critica ridicola. È come quelli che criticano il sottoscritto per essere troppo vicino alle posizioni del governo oppure per essere berlusconiano. È ridicolo. Io dico quello che penso e Parenzo dice quello che pensa. Perché lei ci affibbia o ci mette sulla fronte un timbro? No, vabbè. Allora io volevo un attimo riallacciarmi all'onorevole del PDL Antonione, sì, che ha annunciato qui alla Zanzara l'uscita dalla maggioranza. Io penso invece, volevo andare un po' oltre. Vada oltre. Forse Berlusconi ha capito in anticipo che delegare a ministro, l'ex ministro di giustizia il ruolo di segretario di partito potesse dare al partito stesso quell'area di gioventù e di freschezza che serviva. Quello che il PD non ha capito con Renzi, quello che la Lega non ha capito con Tosi, e stanno loro... Scusi, però quest'area di freschezza con il signor Alfano per adesso non si è vista nel PDL, tant'è che c'è un fuggi-fuggi, insomma, sembra che c'è un fuggi-fuggi, però Berlusconi ha visto anche in questo caso ben oltre... La politica spicciola di tutti i giorni, ha deciso di farsi da parte probabilmente e ha deciso di delegare ad Alfano il ruolo di sostituto, probabilmente, dico probabilmente. Vabbè, allora dove vuole arrivare il suo ragionamento? Voglio arrivare che purtroppo nel PD non riescono a determinare il ricambio di giovani politici. E invece nel PDL c'è un grande ricambio. Ma non è che c'è un grande. Ma dov'è sto ricambio nel PDL? Abbia pazienza. Dov'è sto ricambio? L'indicazione di un nuovo personaggio politico che potrebbe essere Alfano. Quindi questo è il punto che secondo me bisogna valutare. Il PD invece con Renzi è ormai guerra aperta, e la Lega la stessa cosa l'ha fatta con Tosi, l'ha fatta con Zaia, chiunque va contro il guru della politica del partito diventa soggetto da criticare a prescindere. Va bene, questo grazie. Andrea dalla provincia di Macerata, buonasera. Sono Cruciani, sono Parenzo, buonasera. Buonasera, dica. Niente, stavo in attesa in macchina e mi stavo grattando i zebedei, mi erano arrivati al malleolo. Addirittura, perché si stava grattando i zebedei? Erano arrivati al malleolo, capisce? Si erano gonfiati un po', perché io oggi è il giorno dei morti, giusto? Sì. Io mi metto nei panni di tanti garibaldini bergamaschi che sono andati giù, partiti da quarto per fare l'Italia. Vabbè, allora tornerebbero indietro, sai quanti calci in culo darebbero a questi personaggi di merende della Padania e via discorrendo. Comunque, a prescindere da questo, io chiamavo per un altro discorso. È più di un mese che cerco a contattarvi perché sento Parenzo che imita Pannella. Quando imita Pannella, penso, si deve fare i gargarismi con l'aceto balsamico e non nominare i nomi di Pasolini e Giorgiana Masi. Perché, scusi? Lei non ha capito, io sono stato un elettore di Pannella, sono un estimatore di Pannella. E allora non nomini più per cortesia Pasolini e Giorgiana Masi. Andrea, abbia pazienza. Sono uno dei più grandi elettori di Pasolini. Ma non dica stupidaggini, non dica stupidaggini. Ma le imitazioni... persone che sono morte per proiettili vaganti. E beh, che c'entra, scusi? Ma lo dice a me. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Il chiedo una cortesia. Da non violento, quando Parenzo imita Pannella, di farti gargarismi e di non nominare più. Ma lei non ha capito nulla. Lei lo dice a me, che sono uno dei più grandi lettori ed estimatori di Pasolini. Ma che dice? Solo che l'imitazione è fatta anche di ironia, è fatta di catturare gli elementi del personaggio ed esasperarli. Questa è l'imitazione, l'ironia. A parte che Giorgiana Masi, e Pasolini sono citati di continuo da Pannella quando fai dei lunghissimi interventi, esatto. Dunque voglio dire, non mi pare una cosa così strana. Allora, grazie. Andrea, ancora arrabbiato lei? Sì, da Pannella, con il cuore, mentre Parenzo imita e prende i quadrini da Radio 24, da queste frequenze, e quando il partito radicale parli meglio, si avvicini al coso, si levi dalla le compagni di testa, Andrea. Levi l'auricolare. Titolo questo, è il suo rivolto. Dove siete? Ma non sentiamo niente se non leva l'auricolare. Avvicini la cornetta, là il telefonino alla bocca. Io sono molto vicino ai radicali, peraltro. Cosa dice questo qui? Vicino, mi sento meglio? Adesso forse sì, dica. Ma io sono molto vicino ai radicali. Comunque guardi. Ma cosa vuole, Andrea? Mi dica cosa vuole. No, io sono molto vicino ai radicali. Cosa voglio? Lei Parenzo, non rompresca, lo so che sei vicino ai radicali, non ripetere 100 volte, Andrea, dica. Non sto ripetendo 100 volte. No, lei, Parenzo. Penso che lei è in grado di intendere e di volere quello che ho detto. No, io non ho capito niente. Pannella nomina Pasolini e Giorgiana Masi parlando con il cuore. Pannella nomina Giorgiana Masi e Pasolini facendo un'imitazione. Sono due cose. Ma te credo, perché ma certo, ti credo che Pannella è una cosa e Parenzo è un'altra. Per cortesia, Parenzo, per cortesia di non nominare più Giorgiana Masi. Vabbè, ma Parenzo fa quello che vuole. Parenzo fa quello che vuole e continuerà a nominare Giorgiana Masi e Pasolini tranquillamente, perché non c'è niente di strano, non c'è niente di male, non è affatto un'offesa né a Giorgiana Masi né a Pasolini. Andrea, la ringrazio, l'abbraccio forte e non si allarmi per queste cose qua. ma suo marito non si vergogna ancora a stare in televisione, che fa schifo. Senta, solamente quando sì, vuole che la meni? Mio marito è stato sì, è una gran brava persona suo marito. Sì, è una gran... Senta, vuole dire a questa signora che la deve piantare? Ma che ne fa? Madonna. Ma che ne fa? Cerca andatele, che se ne l'altro! Signora un po' matta che si diverte, siccome insisteva gli ho detto che devi piantarla, perché sennò se vuole che la meno, gli ho detto. Poi ho detto a un poliziotto che sarà, le dico scusi mi lasci passare, e basta. È una provocatrice, mi risulta che lavori per non so come Striscia Notizia o qualcosa di questo genere, no? Io ho visto la mia intervista, è uscita da Montecitorio su Striscia la Notizia, e poi non lo so chi l'ha fatta fare. Il duello, caro Parenzo, il duello tra Annarella e la moglie di Fede, uno dei duelli, come dire, epici della zanzara, devo dire la verità. Annarella, la passionaria che è sempre di fronte all'istituzione, di fronte alla Camera, di fronte al Senato, ovunque ci sia un po' di casino, ovunque possa pizzicare, intercettare dei parlamentari, e la moglie di Emilio Fede, la senatrice De Feo. Annarella è un po' il nostro Galli della Loggia. Beh, adesso non esageriamo, insomma, no. non esageriamo. Editorialista di punta della zanzara, signora Annarella. Prima di presentarti un ospite, devo però assolutamente interpellare un ascoltatore che da un po' di tempo è collegato. Lorenza da Padova, buonasera. Buonasera a lei. Cara signora, dica. Io non so se lei abbia permanentemente vicino Parenzo quando parla, spero proprio di no, perché è talmente alle volte ti fa venire una rabbia, perché è che pieno ha fatto? Di rigore. È pieno di rigore quando parla di Berlusconi. Io non so personalmente Berlusconi che gli abbia fatto. Ma no, che livore, ma no, ma nessun livore, nessun livore. Sì. Nessun lui livore. Parla di ironia, non è ironia. No, anzi Lorenza, abbiamo... senta questo piccolo editoriale di Parenzo delle 20:36. Cosa hai letto, Parenzo? Cosa hai letto? Cari amici della zanzara, ho da poco letto un articoletto sul Corriere.it che segnala che le auto blu a Roma sono 72.000 contro le 195 della grande democrazia anglosassone. Beh, cari amici della zanzara, prendete esempio dalla democrazia di Westminster, e qui per l'Italia ci sono solo due parole da dirvi in questo caso: 72.000 auto blu contro 195, non c'è soluzione. A casa chi, scusa, cioè, non è che è una cosa che va oltre il governo, questa cosa qui. Ah, va oltre il governo, se ti piace così. No, ma io c'è una parola in questo caso: tagliare. Perché devi cambiare gli editoriali? Non è che, scusami un attimo, non è che il Di Paolo Mieli, scusami, Ferruccio De Bortoli chiama Galli della Loggia e dice: guarda, tu hai scritto a casa, invece devi scrivere tagliare. E Galli della Loggia gli dice: guarda, scusa, va bene. Sì, vabbè, d'accordo, a casa, non è che cambia molto. Se il governo va a casa, le auto blu sempre 72.000 restano. No, non è che cambia. E che arriva un altro governo e taglia le auto blu, secondo te. Tre parole: giù il sipario, vabbè, d'accordo. Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Come sta, bene, caro Ferrero? Oggi era a spalare lì, era a spalare nel fango. Se non hai un comunista al giorno, tu, caro. No, io non mi sento bene. Se non ho un comunista al giorno, mi sento male. Lo so, hai ragione. Una cosa pazzesca. Prima o poi vi scriverò. No, a me poi sta simpaticissimo, Ferrero, figurati. Però tu devi avere ogni giorno un comunista. No, ma non è così. Poi non è vero. Ogni giorno. Non è vero. Dov'era oggi? A spalare nel fango? Borghetto, che è un paesino vicino a Brugnate, insomma, nella zona della provincia di La Spezia, dove c'è stata l'alluvione. Ah, era lì a dare una mano, Peraltro c'ero io, ma diciamo, come Rifondazione Comunista, era da 5 giorni che ci sono un centinaio di persone, hanno girato 500 persone da... Come si faceva ai vecchi tempi, no? Del Partito Comunista. Esattamente, noi siamo per l'idea che la politica non è solo parole, ma è anche fare, e siamo per dimostrare sul campo che i partiti servono, perlomeno il nostro. Vabbè. Questo è buono. Allora, no, vabbè, per carità, quando uno va, adesso senza ironia, quando uno va a dare una mano, se uno dà una mano va benissimo. Non ho visto Cicchitto fare altro. Oddio, che comunque fissazione che hai tu con Cicchitto. Perché sei così fissato con Cicchitto? Che male t'ha fatto? Neanche Verdini era impegnato nelle banche. Adesso, perché un paio di volte in televisione, perché un paio di... chi è che è caduta la linea? Ferrero? Perché un paio di volte in televisione hai avuto degli scontri con Cicchitto. Una volta che ti ha detto... Racconta agli ascoltatori che cosa ti ha detto una volta davanti alla camera. Davanti alla camera, cosa ti ha detto una volta? Davanti alla camera, dimmelo. Dopo avete avuto uno scontro sulla 7, no? Sì, dopo... lì a Exit, fu memorabile a Exit, sì, Exit. Ma a Exit. Tu sei pazzo, mi ha detto. Ma tu sei pazzo, bellissimo. E poi? Poi davanti alla camera, un giorno c'era un problema lì al governo, lui era particolarmente indaffarato, io gli chiedevo conto del menù della camera. Del Senato, che poi era il menù del Senato. O del Senato, io dicevo, scusi Cicchitto, ma perché costa soltanto 1,90 euro? Perché? Lui non rispondeva, io gli facevo vedere il giornale, a questo punto si gira, mi guarda e mi fa, sei proprio un cretino. Io lo adoro. No, però io, ti assicuro, davvero, io vorrei intervistare Cicchitto, vorrei andare in vacanza con Cicchitto, lo dico davvero. Ma tu sei fissato con questa cosa qui. Ma io mi diverto molto di più. Scusa, se tu dovessi andare in vacanza con tra Cicchitto e Ferrero, e Ferrero, con no, chi no, Ferrero, no. Sì, cioè, con chi ti diverti di più? Tra Cicchitto, che sono uno del PD, uno del PD, e la Melandri, ecco. Beh, Cicchitto, adesso, Melandri. No, meglio andare con la Melandri, abbi pazienza. Ma no, ma con Cicchitto tutta la vita. Hai scelto l'esempio sbagliato, è meglio allora andare in vacanza con la Melandri. Un altro. No, vabbè, adesso basta con questo gioco. È ritornato in onda Paolo Ferrero. Eccoci qua. Allora, mi dica una cosa. Lei come lo giudica? Proprio, vorrei però da lei una definizione plastica, la più sintetica possibile, del ministro Sacconi dopo le uscite di questi giorni. Prima con l'intervista a Sky TG24 e poi ieri quando ha parlato di cellule eversive, eccetera, eccetera. Mi dia una definizione plastica, la più sintetica e così comprensibile. Uno che semina cortine fumogene. Vabbè, questo è, sta facendo un disastro, sta distruggendo i diritti dei lavoratori e tutto questo lo motiva con la lotta alla speculazione. Nessuno riesce a capire che relazione ci sia tra la lotta agli speculatori e licenziare la gente. No, scusi, però lui non è che ha fatto un... lui ha detto che in alcuni momenti della storia italiana, quando uno vuole mettere mano ai contratti eccetera, viene ammazzato. È successo, ci sono dei pericoli da questo punto di vista. Cioè, ha detto una cosa che mi pare anche abbastanza, al di là del fatto che poi uno dovrebbe in questi casi forse... No, però mi scusi, se un ministro ha una cosa da dire, intanto mi sembra che o è il ministro degli interni che segnala che c'è un pericolo vero, che gli è stato segnalato dall'intelligence o qualcosa, oppure se il ministro del lavoro, che non mi risulta abbia un apparato di intelligence alle sue dipendenze, è semplicemente il ministro del lavoro che semina cortine fumogene per fare le... Infatti due giorni che la gente discute invece che delle porcherie che ha combinato Sacconi, delle porcherie che ha detto Sacconi. Che porcheria ha combinato? Che porcheria ha detto? Beh, ad esempio c'è questa cosa dell'articolo 8 messo nella manovra finanziaria già dell'estate. Vabbè, è una porcheria, secondo lei è una porcheria, secondo altri assolutamente. Beh, se permette che il contratto nazionale e le leggi dello Stato non siano più in vigore dentro le aziende laddove c'è un accordo sindacale, e non so se diciamo se è chiara l'entità della cosa, vuol dire che le leggi dello Stato non valgono in tutto il territorio nazionale. Ma non è proprio e così. L'unico posto che ha fatto una cosa simile è laddove la mafia comanda, che effettivamente ha messo le sue leggi al posto. Cioè, scusi, lei sta dicendo che usa i metodi della mafia. Usa metodi mafiosi, Sacconi, scusi. Cioè, fa quello che la mafia, dicendo, che le riforme volute da Sacconi sono molto vicine della sovranità dello Stato, perché lo Stato è tale, le sue leggi sono dappertutto. Se invece si permette, che cosa succede dentro questa crisi? Che quando c'è un'azienda in crisi, se il datore di lavoro va lì e dice o lavorate a meno o lavorate senza applicare queste leggi, che non è o io così, vi chiudo la fabbrica, è chiaro che la gente lo accetta perché è ricattata. Lo Stato serve proprio a garantire dei diritti ai più deboli, al fatto che i più forti facciano quello che vogliono. Dunque, secondo lei questa riforma eccetera eccetera va nella direzione di favorire la mafia? Va nella direzione di permettere la distruzione delle leggi dello Stato. Esattamente come fa la mafia. Beh, ho capito, ma lei sta dando sostanzialmente del capo mafioso a Sacconi, insomma. Questo l'ha detto lei, ma diciamo così. Io non ho detto questo, ho detto che il modo favorisce, di distruggere le leggi è un modo esattamente in Italia, solo la mafia l'ha fatto in questo modo. Senta, invece queste frasi sull'eversione, no? Sul pericolo eversione, sul pericolo terrorismo. Che ne pensa lei? Esiste o no questo pericolo? Ripeto, se uno tocca il mondo del lavoro, se uno tocca, Biagi, questo è un dato Biagi, di fatto. Perché è morto? Biagi è morto per Biagi questo. È se morto uno tocca, se uno tocca il mondo del lavoro, in Italia questo è accaduto. No, è accaduto che i terroristi abbiano ucciso una persona oramai una decina di anni fa. Ho capito, questo per motivi accaduto, molto chiari, però. Questo è accaduto. Bisogna vedere, essendo che non è che c'è tutti i giorni qualcuno che va in giro a sparare, mi risulta. Beh, o Sacconi, e non dovrebbe essere il ministro del lavoro che pone il problema, ma quello degli interni, ha delle notizie chiare, e cioè che ci sono nuclei di terroristi che minacciano qualcuno, che oppure Sacconi sta semplicemente spargendo notizie, lui fa notizie terroristiche, paura e depistaggio, cioè di fare grandi cortine fumogene per non far discutere il merito, il merito della questione, dei provvedimenti, e di far discutere di questa cosa. E dunque lei come lo definisce? Lei ad oggi ha qualche informazione in più che Sacconi abbia dettagliato su pericoli reali? No. Neanch'io. Ne ho sentito il Ministero degli Interni farlo, è una cosa francamente scandalosa in Stato democratico. Senta, scusi un attimo, dunque lei come definisce Sacconi? Mi dia una definizione di Sacconi un po' così, nel senso delle sue, Ferrero, cioè uno che semina zitto. Un ministro contro i lavoratori. Vabbè, questo contro i lavoratori. Cioè, no, non, per è, quello, non è una per quello che ha detto sulla questione dell'eversione, cioè che effetto le ha fatto? La prima cosa che ha pensato qual è? Lui è, che ne so, l'ha pensato dentro di sé, no? Una cosa, l'ha pensata. Dice, questo è veramente un... È veramente un... Che ne so, una mascalzonata, diciamo. Una mascalzonata. Io lo so quello che ha pensato Ferrero, però non me lo dirà mai, vabbè. Non me lo dirà mai. D'altronde sa, io non godo di immunità parlamentari, per cui sovente non posso dire quello che penso, perché non ho i soldi per pagare querele per diffamazione e quindi... Eppure quella sulla mafia, guardi che rischia su quello. Vabbè. No, non penso, perché sono disponibile a discutere da qualsiasi parte il fatto che l'unica organizzazione che ad oggi impedisce allo Stato di esercitare la sua sovranità su tutto il territorio e la mafia. Abbiamo capito, ma lei e sta dicendo che Sacconi permette ai datori di lavoro di comportarsi esattamente. Ho capito, lei sta dicendo che Sacconi in sostanza si comporta come i boss mafiosi, cioè, o comunque vuole che le dica, è colpa mia se Sacconi fa così. Ho capito, ma a parte che è un dato scientifico. Ma la mafia non è un'informazione. Non è un dato scientifico. No, non è un dato scientifico. Ma no, uno è un ministro della Repubblica, gli altri sono dei criminali. Parenzo, vedo che ha individuato una differenza, ma qualche volta devo dire, nella storia italiana queste due cose, insomma, non dico che hanno coinciso, ecco, però insomma, diciamo che capita. Dei ministri della Repubblica, però non è questo il caso, non è salvati dal Parlamento, non è questo il caso, non è questo. Allora Bossi non è alla riunione del, non è al Consiglio dei Ministri, questa è la sostanza. E beh, perché è qui collegato con noi da Monza, dalla Villa Reale di Monza, Umberto Bossi, buonasera. Pronto? Bossi? Ha chiuso la porta. Calderoli non ha chiuso la porta. Abbiamo oggi, non sono andato a Roma perché abbiamo fatto il federalismo fiscale. Ancora una volta il federalismo fiscale, ma già sta. Già Radio l'avete Palaria, fatto. Libera. È Radio 24. È Radio 24 questa. Pronto. È Radio 24, Bossi? Abbiamo sempre quel coglione Cruciani, quando capirai che sei venuto qui a rubarci le donne e il lavoro al nord, devi tornare via tu e Mulè, giù a Roma, sotto Roma. Vai, devi andare via. Devo dire una cosa importante oggi, perché c'è stato lo spread. Sì. E ha toccato dei limiti insostenibili anche per il nord. E allora bisogna cambiare tutto. Cambiare le dirigenze delle banche, non sono più, non sanno più sostenere niente. Renzo, Riccardo, nuovi. Riccardo stasera era qui ospite. È stato bravo stasera. Lo mettiamo all'Unicredit. L'Unicredit. È bravissimo, sa guidare le macchine, quindi guiderà anche una grande banca del Nord come Unicredit. Non può lasciare in mano a questi. Cioè, la proposta di Bossi è guidare. Riccardo Bossi all'Unicredit. Perché sa guidare bene, e quindi sarà un timoniere bravissimo per Unicredit. Poi dopo abbiamo Manuela, la signora Manuela, bravissima. Beh, è sua moglie, intesa, però, eh? Intesa, stai zitto. Intesa, San Paolo. Abbiamo già parlato. Ma fa l'insegnante. Fa l'insegnante. Abbiamo già parlato. Intesa, no. San Paolo. È una banca del nord di Torino. Deve rimanere al nord. Tutti quei terroni che guarda che guida. Poi il gruppo Sole 24 Ore. C'è un uomo lì che siede in quel giornale, si chiama Napoletano. Non va bene. Non va bene più. Perché non va bene? Non va bene. Mettiamo Calderoni, che è più adatto a scrivere. Ma che c'entra Calderoni? Semplifica tutto, fa una pagina unica del giornale, una, non 40, tutti quegli inserti che fa lui dell'erario, fanno inserti che non se, dell'erario di Roma, poi via, anche dell'erario. Vuole rivoluzionare poi, tutto. Poi via, quindi. Vabbè, ho capito. È venuta l'ora della rivoluzione padana, la rivoluzione verde si chiama. Intesa San Paolo anche i colori verdi, quindi io lo lasciamo verde, però cambiamo sì, i verdi. Hai il Sole 24 Ore, come lo facciamo invece? Verde. Verde. Infatti si chiamerà il Sole 24 Ore delle Alpi, però. Sole delle Alpi. Ho capito, sole, okay. Sole delle Alpi. Bene, grazie. Delle Alpi. Grazie, no, grazie. Non devi chiudere perché stiamo padanizzando tutto ormai. Ma sto chiudendo, devo chiudere per forza. Tutto. Non devi chiudere perché ho parlato con Tamburini. Tamburini lo lasciamo ancora un po' lì, perché ho parlato del nord, Tamburini. Ah, va bene, capito. Direttore, è un uomo del nord. Direttore di Radio 24, benissimo, grazie. Lo lasciamo con noi. La, lascia, sì, la notizia è questa. Solita pernacchia di Bossi. 800 24 00 24. Ferrero, mi scusi. Devo protestare, però. Perché, scusi? Fate parlare molto più Bossi di me. Ha ragione, però che vuole fare? Sa, Bossi non è che tutti i giorni. È un ministro, comunque un ministro. È un ministro della Repubblica, deve capire. Ah, è vero. A proposito, ma. Giurato sulla Costituzione. A proposito, scusi un attimo, voi mi dica la verità, volete tornare in Parlamento col centrosinistra, però questo centrosinistra, in particolare il Partito Democratico, l'alleanza con voi non la vuole fare, caro Ferrero. E questo è il punto. Il punto è questo. Cioè, rassegnatevi, l'alleanza col Partito Democratico non la farete. Ma vedremo, se vuole scommettiamo. In ogni caso io prendo atto di che cosa dice Bersani. E Bersani, che dice? Esattamente un anno fa ha proposto di fare il Fronte Democratico, e devo dire l'ultima volta che l'ho visto qualche settimana fa mi ha riproposto la stessa cosa. Ma il Fronte cosa. Democratico che cos'è vuol dire? Il fronte che c'è un accordo di governo del Nuovo Ulivo, che però loro proporranno di allargare a tutte le forze che vogliono concorrere a sconfiggere questo governo di destra, che come dice Parenza se ne deve andare a casa. Sì, d'accordo, però Ferrero, il punto Ferrero è che cita Parenza e tutto il finito. Il simbolo della federazione di sinistra, sì. Cioè Comunisti Italiani più Rifondazione Comunista, accanto a quello del Partito Democratico, alle elezioni, diciamo la verità, si arrenda, non ci sarà. Vedremo, io penso di sì. Ma Bersani gliel'ha promesso? C'è un accordo con Bersani? No, ma non c'è nessun accordo. È stato un ragionamento molto semplice. E cioè che tutte le forze che sono d'accordo per sconfiggere Berlusconi si devono mettere insieme, visto che c'è ma un questo lo dice lei, ma non è vero. No, Bersani... ma lo dice anche Bersani. Ma non è vero, però... Bersani lo dice, ma intervisti Bersani domani sera, gli chiede, a me risulta che dica questo. In più c'è un secondo fattore che non è del tutto secondario, e cioè che nonostante noi nei sondaggi veniamo dati con percentuali da prefisso telefonico, diciamo, 0, poi quando si vota sul serio invece prendiamo il 3, il 4%. Cioè voi valete come Sell, per esempio? No, penso che un po' sotto, per quanto nelle amministrative siamo un punto sotto sostanzialmente, mentre diciamo i punteggi che vengono fuori dai sondaggi sono punteggi da basket. Ma lei, diciamo. Lei potrebbe entrare in Parlamento nelle liste di qualcuno di altri partiti oppure no? Questo è escluso? No, penso assolutamente di no, nel senso che o c'è un accordo chiaro con la federazione della sinistra, oppure no, è evidente che noi non entriamo nelle liste del Partito Democratico o di altri. C'è una dignità politica, diciamo così, e il fatto che penso che le nostre posizioni ci sono nel paese. E quanta che percentuale dà di... Ma come fanno allearsi con Renzi, scusa, ad esempio? Appunto, lei con Renzi che c'entra? Come fate ad allearsi con Renzi? C'è chi ha fatto il CLN... diciamo così, addirittura con i monarchi. Ma non c'è bisogno di fare CLN, Ferrero, qui c'è bisogno io penso che c'è bisogno bisogno di due cose. Una è di cacciare Berlusconi. Quello però lo sta facendo anche da solo. Per adesso continua a essere lì. Io continuo a incontrare gente che mi dice quando se ne va, quando se ne va. E la seconda è di avere delle ricette chiare per sconfiggere la crisi. Sulle ricette, voi il Partito Democratico siete distanti. Comunque, guardi, io una sola cosa le voglio chiedere: una definizione di Renzi. Mi dia una definizione del sindaco di Un ottimo candidato per primarie del centrodestra. È uguale a quello che ha detto Di Liberto. Va bene, no, Di Liberto, chi ce l'ha detto questa cosa qua l'altro giorno? No, Cofferati, ma anche un'altra persona, non me lo ricordo. Grazie Paolo Ferrero, segretario di Fondazione Comunista. Saluti. Un comunista al giorno? Com'è che dici, Parenzo? Un comunista al giorno leva a cruciare di torno. Esagerare. Sarò sempre qui anche domani. Siamo sempre qui anche domani 18:30. Ciao. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, spread, bund e tutti che ci pigliano per il culo, se ti piace così, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene. Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. La patonza deve girare.